Allora, rieccoci tornati in voce, in diretta. Dobbiamo un po' modificare, insomma, quella che è la nostra scaletta, perché gli interventi dei compagni di una serie di situazioni impegnate nell'organizzazione della giornata di domani e delle altre, insomma, previste, per il momento non si può fare, è rimandato chiaramente da qui a poco, però al momento molto importante al telefono con noi c'è l'avvocata Simonetta Crisci, che salutiamo. Buongiorno Simonetta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dunque, domani c'è questa udienza preliminare, chiaro, sì, per i 25. No, visto che le donne non sono sagge, non vi aspettate che io sia saggia. Beh, infatti, in effetti, insomma, anche questa investitura, insomma, ai saggi italiani, un po', come dire, fa da cappa, no, a tutta questa situazione, nel senso, certo, che poi i media non stanno per nulla registrando quello che invece sta succedendo da un punto di vista giudiziario, ma io direi proprio politico, nei confronti di queste persone accusate del 15 ottobre, laddove peraltro, insomma, proprio quello che successe all'epoca ormai sembra totalmente slegato dalla situazione invece materiale, sociale che si vive nel paese, no? Ecco, domani quindi ci sarà questo appuntamento. Intanto, proprio in termini, come dire, tecnici, cosa succederà domani, Simonetta? Beh, intanto sappiate che l'udienza si chiama preliminare, è l'udienza preliminare a un eventuale dibattimento. Dico questo perché il nostro codice prevede che alla fine delle indagini, per quello che può fare un PM, c'è un giudice che controlla quali sono le prove che sono a carico degli imputati. In questa fase diventano imputati, fino ad oggi erano indagati, controlla quali elementi ci sono di accusa, vede se sono sufficienti per andare al giudizio del tribunale e stabilisce chi deve andare a giudizio. Qui sono 25 imputati e dovrà valutare il giudice se tutti quanti hanno a carico degli elementi probatori di accusa che possano mandarli al giudizio in un tribunale, che poi vaglierà a seconda dei testimoni, dei documenti che si presentano, delle foto, filmati che saranno confrontati, quelli del PM con quelli della difesa, e vedrà chi poi dovrà essere condannato o assolto. Questa fase dell'udienza preliminare l'affrontiamo domani, che è la prima giornata, di solito la prima giornata vede coinvolti le parti del processo. Si fa l'appello, si vede chi è presente e chi ha avuto le notifiche regolari, gli avvisi dell'udienza, a volte ci sono errori, per cui è una prima fase che poi vede un rinvio per sviluppare le richieste del pubblico ministero per ciascuna persona e le richieste degli avvocati per i propri assistiti. Ho capito. Dunque, insomma, questa tecnicamente è la formalità alla quale assisteremo domani. Si farà l'appello delle parti, se ci sono o no presenti gli imputati, gli avvocati, se sono tutti presenti, se tutti sono avvisati. Poi si affronterà invece, quando sarà l'udienza in cui il pubblico ministero dirà perché, in base a quali prove, vuole che siano giudicati questi imputati, e gli avvocati diranno quello che pensano delle che ha prodotto il pubblico ministero, illustreranno le loro prove, se hanno fatto un elenco di audizione di testimoni, se hanno dei filmati da produrre, o insomma si prepara il tutto per l'eventuale processo. Però si può essere anche prosciolti se le prove del PM per qualche persona non sono così efficaci, si può essere già prosciolti in questa fase. Quindi è una fase ondeggiante, diciamo, può vedere un rinvio a giudizio, può vedere un proscioglimento. Certo, in questa fase si potrebbe anche chiedere il giudizio abbreviato, ma viste le esperienze passate, vista l'accusa di devastazione e saccheggio che è molto grave, parte da 8 anni, arriva a 15, non si può affrontare un processo. Qualcuno lo sceglierà, se non ha quasi nessuna prova a carico potrà anche scegliere di fare il giudizio abbreviato, ma penso che dai contatti che abbiamo avuto con gli altri avvocati e con gli imputati non credo che ci sia questa volontà da parte di nessuno, però non è esclusa, ecco. Perfetto, beh, questo comunque già è un primo dato importante, nel senso che nell'affrontare questo processo comunque credo si possa dire sono aumentate un po', no? le possibilità di incontro da parte sia degli imputati, sì, ma immagino anche da parte della difesa, sì, di voi avvocati. Sì, anche, no? Perché le difese sono avvocati che hanno già fatto processi di questo tipo, quasi tutti, diciamo anche chi ha difeso persone che sono state accusate di questo reato anche per reati legati alla frequentazione degli stadi, ossia ormai da qualche anno è diventata quasi un'abitudine da parte del potere di incriminare per la devastazione e il saccheggio, considerando di tal fatta tutte le manifestazioni nelle quali ci siano degli scontri con la polizia o ci siano degli elementi di violenza, e per cui dobbiamo affrontare questa fase in modo importante e anche poter dimostrare che la devastazione e il saccheggio sono quello che si intende quando si sente la prima volta la parola. Insomma, le devastazioni, parliamo di guerre, parliamo di momenti in cui le città vengono messe ferro e fuoco, e non certo quello che vogliono intendere i nostri accusatori se in un quartiere ci sono gli scontri della polizia diventa una devastazione e saccheggio. Ecco, noi su questo saremo molto decisi e sfateremo questa abitudine che si è presa, ricordando anche i compagni di Genova che sono stati condannati a pene altissime per questo reato, anche se non è stato dimostrato neanche la loro consapevolezza di stare a partecipare ad azioni che erano poi considerate devastazioni. Ecco, questo è un elemento importante. Abbiamo avuto alcune sentenze anche a Roma che hanno escluso la devastazione del saccheggio proprio perché non c'è questo collegamento tra le azioni, le condotte tenute da un imputato e tutto il contesto intorno a lui e intorno alla manifestazione. Questa è una cosa importante. Assolutamente. Per la quale ci batteremo. Ecco. Assolutamente. Posto il fatto che chiaramente ci auguriamo che già a partire da subito ci siano dei primi proscioglimenti, il fatto però è che comunque, insomma, no, un po' di, come dire, preoccupazione c'è anche, sì, perché il PM Minisci, insomma, comunque già in passato ha condotto inchieste, alcune delle quali poi si sono sgonfiate letteralmente, sì, quella del Sud Ribelle. Comunque, sai, le scelte, l'azione penale è obbligatoria, ma in molte procure si scelgono i PM adatti a certi processi, credo, certo, che anche qui siamo nello stesso contesto. Peraltro era sempre lo stesso, insomma, perché poi credo che, no, siamo sempre negli stessi filoni processuali, diciamo. Ricordo che qualche tempo fa venne richiesta proprio da parte di questo PM la necessità del carcere per alcuni indagati che già erano sottoposti a delle misure cautelari e che non avevano assolutamente dato prova, ad esempio, di fuga o quant'altro, che sarebbe, diciamo, le circostanze per le quali poi, no, viene richiesta una misura cautelare ancora più restrittiva. Ecco, sì, quindi ci sono questi, sì, precedenti un po', lui ha chiesto, no, più volte l'emissione di ordinanze di custodia cautelare in carcere, ma diciamo l'espressione che il giudice richiesto di queste ordinanze ha voluto chiarire che non c'erano gli elementi. Evidentemente Minisci viene da una situazione, quella di Cosenza, dove guardandosi bene dal perseguire i reati di 'ndrangheta o di mafia, vengono perseguitati continuamente i compagni delle università lì vicine, che vengono accusati di essere dei sovversivi, e come ben sapete sia a Cosenza che a Taranto c'erano stati due processi, sono durati 10 anni, contro compagni del Sud Ribelle accusati di aver organizzato addirittura i fatti di Genova, nel senso dei fatti reato, e questo Minisci è uno dei PM che venne anche a sostenere l'accusa contro questi compagni. A un certo punto apparve al posto del PM Fiordalisi, che come ben sappiamo poi è stato trasferito in Sardegna, ed ha fatto la sua figura vedendo invece i compagni assolti, per cui da questa esperienza è passato a Roma, e come ben sappiamo quando si arriva a Roma si arriva con posti di riguardo, insomma, ecco. Chiaro, chiaro. Beh, doverose anche queste precisazioni che ci aiutano un po' a capire qual è il quadro all'interno del quale si scrive tutta questa vicenda. E allo stesso tempo anche, diciamo, i fascicoli di avvisi di garanzia che sono pervenuti in passato erano abbastanza voluminosi. Purtroppo anche, diciamo, circostanze di compartecipazione psichica, morale, che un tempo magari, no, erano prese forse un po' troppo alla leggera, si sono poi tramutate in realtà, perché siamo proprio nell'ordine di questo. Però tipo ci sono stati sforzi notevoli, se pensi che anche a Genova e quel cosiddetto dei Black Bloc erano in 25, alla fine sono diventati 10 quelli che hanno dovuto subire le condanne, neanche tutti. Purtroppo addirittura sono solo 2 quelli che stanno in carcere, per cui comunque c'è stato uno scioglimento dell'accusa nell'ambito dei processi e col decorrere del tempo, quindi sappiamo bene che questi processi fatti in dati momenti hanno degli esiti molto forti e anche punitivi. Fatti in altri momenti magari piano piano vengono ad essere considerati in modo diverso, ecco. Bene. Quindi io bene. Vi saluto perché vado in udienza. Va benissimo, ti ringraziamo per il tuo intervento. Domani. Grazie mille. Domani. Arrivederci. Ciao Simonetta, ciao. He does his dirt all by his lonely. Forget his homies. He doesn't feel like